Santa Antonio Luna, mica del lune, demonio protettore di tutti gli animali, anche di quelli stonati come noi. Santa Antonio Luna, mica del lune, demonio protettore di tutti gli animali, non degli esseri umani, umani, troppo umani, che non vanno più là. Santa Antonio Luna, mica del lune, demonio protettore di tutti gli animali, anche di quegli esseri umani che balleranno stanotte, dimenticando tutte le volte che hanno avuto paura, superstizioni e paura, senza andare più in là. Santo nostro protettore.